L'uomo e l'idolo di legno da Favole di Jean de La Fontaine tradotto da Emilio De Marchi registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi agosto 2007 Roma. Possedeva un pagano un dio di legno, un dio di scorza dura che avea le orecchie solo per figura, nel quale confidava e a tal segno che gli costava un occhio della testa a mantenerlo in festa. Nessun idol bocconi mangiò più grassi e buoni che l'uom tra i fiori a renderlo propizio offriva in sacrificio. Il dio con tutto ciò non gli procura fortune, eredità, soldi o regali se non di tanto in tanto temporali sui campi lavorati che la borsa al tapino ancor rende più stretta. Pur tanta è del buon uomo la speranza che al dio non mancò mai nella disdetta la solita pietanza. Stanco al fin d'aspettare il poverino, un dì, preso un baston, spezza il suo dio e, oh, vista, n'esce un fiume di doppione di quelle d'oro che dimando anch'io. L'amor mio non valea dunque un quattrino, esclama l'uom devoto a quella vista. Va, rassomiglia a quella gente trista che del cuor non intende la ragione, ma vuole essere pigliata col bastone. Fine della favola. L'uomo e l'idolo di legno. Questa registrazione è di dominio pubblico.